Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. A ruota libera. Viaggio nell'Italia che pedala. Di Alessandra Schepisi. Per mezza Toscana si spazia un fiumicel che nasce in Falterona e 100 miglia di corso non sazia. Dante Alighieri, Divina Commedia, Purgatorio, canto 14. Buon pomeriggio, nuova puntata di A Ruota Libera. Torniamo a parlare di cicloturismo. Lo facciamo con Enrico Caracciolo, grande appassionato di viaggi ma anche grande firma del giornalismo di viaggio, scrittore, fotografo, direttore della rivista Itinerari e Luoghi, autore del libro In sella all'Arno, edito da Ediciclo. Ciao Enrico, buon pomeriggio. Ciao Alessandra, ciao a tutti. Allora Enrico, con te vogliamo parlare di un percorso in parte realizzato e che sarà completato entro il 2021, che corre lungo l'Arno dalla sorgente fino alla foce, di un itinerario di 400 chilometri destinato ad essere secondo molti la più bella ciclovia d'Europa, che tu hai percorso dove è stato possibile, percorso ma anche immaginato, sognato, raccontato in questo tuo libro, riuscendo, devo dire, anche a trasmettere l'anima, lo spirito di questi territori, le emozioni, gli incontri, facilitato però anche da un mezzo come la bicicletta che, come tu scrivi, no, permette di sognare, di viaggiare, di non perdere il contatto con il territorio, con la strada. No, ecco, cosa ha significato questo viaggio per te? La scoperta di un territorio già conosciuto, perché sono luoghi che sia per lavoro sia per diletto ho avuto modo di conoscere negli ultimi anni, però vivendolo in bicicletta, anche se il racconto non è il mio viaggio che inizia nel Casentino e finisce a Boccadarno, ma sono dei tratti percorsi in bicicletta in diversi tempi, perché la ciclabile, come dicevi tu, non è completata. Quindi c'è del reale, c'è dell'immaginario e ci sono dei racconti di storie che si possono vivere facendo questo percorso. Una ciclovia che, come tante altre, rappresenta non solo un'opportunità dal punto di vista economico, ma anche possibilità di valorizzare luoghi meno conosciuti, ma ricchi di storia e cultura, che magari appunto forse sono meno noti, no, al grande pubblico. È proprio questo la chiave di lettura di questa ciclovia, perché passare per Firenze o Pisa durante un viaggio in bicicletta è molto diverso che raggiungerli durante con un'escursione giornaliera oppure arrivandoci come meta di un viaggio. Diventano dei tasselli di questo mosaico dove, come giustamente dicevi tu, sono molto di più le scoperte che uno può fare. E allora la prima cosa che si respira è il rapporto che la Toscana e le comunità che vivono lungo l'Arno hanno con il fiume. E l'Arno poteva essere tranquillamente un Tamigi, una Senna, passava per Firenze, c'erano gli stabilimenti balneari, cioè si respirava aria di Belle Époque, la città si riversava, si guardava il fiume con un'aria romantica, di romanticismo, quindi era vissuta dai fiorentini, all'alluvione del 66. Nel novembre del 66 cambia completamente il rapporto tra il fiume, la Toscana e i toscani, perché la risorsa diventa un luogo di paura. Le ferite delle alluvioni sono ancora molto presenti in città. Adesso, piano piano, si sta ricominciando a recuperare quel rapporto di intimità col fiume, di legame, se così vogliamo, e la ciclovia è, da questo punto di vista, è un passo enorme nell'ottica di questo cambiamento. Enrico, invece, dal punto di vista ciclistico, qual è la difficoltà, il dislivello di questo percorso? Non ci sono grandi dislivelli, sarà un percorso fattibile da anche chi non è ciclista. Fattibile in quanti giorni? Secondo me tutto il progetto, per viverlo nella maniera migliore e senza dover fare le corse, io penso in 2 settimane, anche 10 giorni sarebbero sufficienti. Però mi ripeto, sono talmente tante le cose, gli spunti da vivere dalla sorgente, proprio dalla sorgente che racconta tutti i misteri etruschi, il lago degli idoli, e ci sono veramente un'infinità di spunti che io ho cercato di sintetizzare e raccontare nel libro. Tra l'altro, per capire la geografia e di questa ciclabile, il percorso che va da Firenze fino a Boccadarno segue il fiume Arno, ovviamente. Poi c'è una diramazione che segue invece da Arezzo il sentiero della Bonifica fino a Chiusi, e questo è un percorso ciclabile già fruibile che la Regione Toscana ha posto in essere già da ormai saranno una buona decina d'anni, e qui è tutto pianeggiante, si va lungo il canale maestro della Chiana, e la ciclabile è in realtà la strada degli ingegneri idraulici che devono controllare lo stato del canale. Quello è un viaggio già fattibile perfettamente. Arezzo Chiusi e poi si torna indietro col treno. Una ciclovia che, come tante altre in Europa, corre lungo un fiume. La bicicletta è proprio il mezzo ideale per entrare in sintonia con l'acqua. Ecco, come direttore di Itinerari Luoghi, tra qualche settimana poi andrai a scoprire un altro fiume, questa volta più a nord, il fiume Po, per raccontare anche un modo diverso di viaggiare in bici lungo il fiume. I fiumi, come hai detto te, hanno molto da raccontare, e poi la geografia ciclabile d'Europa è quella dei fiumi. Guarda la ciclabile della Loira, che ha trasformato anche turisticamente una parte della Francia, e la stessa cosa farà l'Arno. E allora cosa abbiamo fatto con Itinerari e Luoghi? Insieme a Giro Libero abbiamo organizzato un viaggio per i lettori di Itinerari, molto semplice, è un bici più barca partendo da Mantova e ritornando a Mantova lungo il Canal Bianco e appunto arrivando sul Po, su un'imbarcazione, queste chiatte fluviali, che originariamente l'Ave Maria, così si chiama, era destinata a dragare le sabbie del fiume, e adesso invece è diventata una comodissima imbarcazione da crociera per ciclo navigatori. Quindi si dorme, si mangia in barca, e durante il giorno si pedala sugli argini del fiume o lungo le ciclabili, andando a scoprire anche in questo caso, a parte Mantova che naturalmente un luogo di interesse importantissimo, si vanno a scoprire anche tante piccole realtà lungo il fiume che hanno tante storie da raccontare, sono le famose storie sconosciute che disegnano poi alla fine l'architettura di un viaggio. E questa iniziativa l'abbiamo lanciata per il terzo weekend di ottobre, con biciclette per chi le desidera, pedalata assistita, quindi un viaggio molto comodo, perfetto esempio di viaggio lento in tutti i sensi. Bene, grazie Enrico, allora aspettiamo i tuoi racconti anche su questo viaggio, buona bici e buon pomeriggio. Grazie Alessandra, e buone pedalate a tutti. È il movimento lento che cerco, ma che non trovo mai. Violentemente lotto contro il tempo, tirando dei miei guai. E sempre sul cicloturismo, avete un'idea innovativa, un progetto di itinerario, un'app per cicloviaggiatori o un'attività particolare da proporre in questo ambito e siete alla ricerca di un finanziamento? Bene, c'è un'opportunità, quella di partecipare entro il 7 ottobre a Bike Touring ed essere selezionati tra 10 vincitori che verranno premiati con 30.000 euro ciascuno. Si tratta di un programma promosso da MiBACT, gestito da Invitalia, già oltre 100 le domande arrivate. Ne parliamo con Alfredo Bruni, responsabile del progetto Factor Impresa Turismo di Invitalia. Bike Touring è un bando di Factor Impresa Turismo, che è il programma nazionale del MiBACT di Invitalia per l'innovazione nella filiera turistica. Siamo alla 10ª edizione di Factory, questa volta abbiamo deciso di concentrarci sul bike, quindi quello che vogliamo è stimolare nuove idee imprenditoriali nel settore della bicicletta, quindi il mondo del cicloturismo, il mondo dei servizi per chi va in bicicletta. Che tipo di progetti possono essere presentati? È possibile anche fare qualche esempio? Sì, guarda, di solito quando ci si approccia al mercato con una startup bisogna prima di tutto chiedersi chi saranno i propri clienti, e noi abbiamo immaginato tre tipologie di clienti. Prima di tutto possiamo pensare a delle iniziative che si rivolgono direttamente a chi viaggia in bici, quindi al cicloturista, quindi pensare a tutte le necessità del cicloturista, sia quando sta pianificando il proprio viaggio, sia proprio quando lo sta facendo, oppure anche dopo quando lo deve raccontare, quindi tutte le app per esempio molto utili per chi va in bicicletta, o anche i servizi necessari mentre sta facendo il proprio viaggio. Oppure altri clienti potrebbero essere le amministrazioni, perché le amministrazioni locali hanno la necessità di rendere le destinazioni bike friendly, e quindi altri clienti dei nostri proponenti potrebbero essere le amministrazioni locali. oppure gli operatori della filiera, quindi i servizi destinati a chi ha il contatto diretto con il turista, quindi gli alberghi, i campeggi, i tour operator. Quindi diciamo che c'è un'ampia possibilità di rispondere alla sfida con dei progetti innovativi. Ma anche per esempio anche itinerari ciclabili veri e propri, idee di itinerari? Allora, idee di itinerari sicuramente sì, ma con dei servizi all'interno, perché di per sé un itinerario non è un qualcosa di vendibile, però se ha dentro dei servizi, quindi delle esperienze, un noleggio, delle combinazioni di servizi per il cicloturista, sicuramente sì. Chi può presentarli questi progetti? Chi può partecipare a questa opportunità? I progetti possono essere presentati da gruppi informali di persone fisiche, quindi un gruppo di persone che in caso di vittoria si impegna però a costituire un'impresa, oppure imprese giovani. Per noi giovani sono le imprese costituite a partire dal 1 gennaio 2015 in qualsiasi forma giuridica, quindi dalla ditta individuale alla società per azioni, oppure tutte le start-up innovative, però che devono essere appunto iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese. Nel caso di start-up innovative non conta la data di costituzione, quindi possono essere costituite anche prima del 1 gennaio 2015. Quali sono le tappe del progetto? Ci sono anche due giornate in cui ci sarà una sorta di full immersion. Funziona così: entro il 7 ottobre dobbiamo ricevere le candidature, quindi alle ore 12 del 7 ottobre scade la call. Valuteremo tutte le domande e il 13 ottobre verrà pubblicata la graduatoria. Selezioniamo le migliori 20 che portiamo ad un evento di accelerazione e 10 di queste imprese escono da questi due giorni con 30.000 euro ciascuna da spendere nella realizzazione del progetto. La cosa importante è che per spendere questi soldi i beneficiari non devono anticipare nulla, devono solo presentarci i preventivi, noi eroghiamo e successivamente controlliamo la spesa che sia coerente con il progetto presentato. Quindi è un contributo interamente a fondo perduto e soprattutto è un anticipo. Quando si parla di servizi di accompagnamento di Italia per i vincitori, che si intende? Diciamo che chi partecipa, soprattutto chi vince, ma abbiamo collaborato anche con aziende che hanno semplicemente partecipato, entra un po' a far parte della nostra famiglia, quindi della famiglia di Factor Impresa, che in 3 anni ha esaminato oltre 1.000 progetti innovativi e ne ha accompagnati al mercato 83, quindi è una discreta scuderia. E questi servizi sono appunto sostanzialmente l'accompagnamento al mercato, quindi noi ce li portiamo nelle nostre iniziative, li abbiamo presentati ai nostri partner, tra cui Enit, il Ministero, diverse regioni, grandi operatori, e comunque diamo anche una consulenza e un percorso speciale per accedere alle altre agevolazioni dell'agenzia, che sono Smart Start, ad esempio, l'incentivo per le start-up innovative, Cultura Crea, un incentivo specifico per la filiera turistico e culturale, Resto al Sud per le nuove imprese del Mezzogiorno. Insomma, abbiamo un ampio portafoglio di agevolazioni. Chiaramente chi è entrato in contatto con l'agenzia attraverso questo canale può assolutamente partecipare alle altre iniziative per sviluppare il progetto. E trovate tutte le informazioni su questo bando, che ricordiamo scade tra pochissimo, il 7 ottobre, su fattorimpresa.invitalia.it. Vi daremo conto poi dei progetti vincitori, delle idee innovative che saranno venute fuori. Per adesso buona domenica, buone pedalate da Alessandra Schepisi. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba, perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta, non la lascia più. Vai su aruba.it.